America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Oggi, primo maggio, conosciutissimo, però in Italia, in Europa, ma non in America, perché oggi, primo maggio, in America si lavora, è una giornata assolutamente normale. Il Labor Day in America, dunque la giornata, la festa del lavoro, la si festeggia nel primo lunedì di settembre, che diventa poi il lungo weekend che chiude l'estate, mentre invece il Memorial Day è quindi il giorno dedicato ai reduci, insomma a coloro che sono periti sul campo di battaglia, apre la stagione estiva ed è l'ultimo lunedì di maggio. Quindi diciamo ci sono tradizioni, culture diverse, ma una che colpisce soprattutto è proprio questa differenza su una festa che in tutto il mondo il primo maggio, in America non lo è, per reazione, credo, a suo tempo, per differenziarsi da quella che poteva essere una coda, un traino del movimento dell'Internazionale Socialista. Quindi in America oggi si lavora, gli uffici sono aperti, le banche sono aperte, ma vorrei approfittare di questa giornata per parlare di lavoro. Il lavoro è un problema oggi, un problema in Italia, un problema in America. A un certo punto sembrava che qui il tasso di disoccupazione migliorasse, o meglio, il tasso di disoccupazione è migliorato, ma la formazione di nuovi salariati dipendenti, quindi di nuovi payroll, invece è peggiorata, soprattutto con l'ultimo dato relativo al mese di marzo. Se non si crea occupazione, finisce che si ingrippa l'intero meccanismo della ripresa economica. Ecco, io con me ai microfoni di America 24 Alberto Alesina, professore di economia a Harvard, che è stato altre volte nostro ospite. Buongiorno Alberto. Buongiorno, buongiorno a te. Eccoci Alberto. Allora, come mai in America non c'è il primo maggio? Ma penso che l'hai spiegato benissimo tu. Il primo maggio ha un significato, diciamo, di festa del lavoro, d'intesa come tradizione marxista, diciamo così, un po' di lotta di classe se vogliamo, mentre gli Stati Uniti volevano differenziarsi da questa tradizione e hanno una festa del lavoro che non c'entra assolutamente niente con questa tradizione. Un altro esempio del fatto che, diciamo, la visione marxista ha impermeato molto di più la cultura europea di quella americana. Ecco, ma la cosa interessante è che i sindacati americani stessi hanno in qualche modo respinto l'idea di celebrare il primo maggio, la festa del lavoro. Quindi c'è, diciamo, un'idea, una mentalità che si estende non soltanto alla classe dirigente, imprenditoriale o politica, ma anche al sindacato. Ma certo, i sindacati americani hanno molto meno, direi quasi nulla, della tradizione, diciamo, socialista di molti dei sindacati europei, quindi anche i sindacati americani si sono sempre differenziati come strategia, come modo di agire dai sindacati europei, soprattutto quelli di stampo di sinistra. Se vuoi un riflesso di questo lo vediamo in una situazione che è abbastanza eclatante, e cioè la gestione di Sergio Marchionne della Fiat in Italia e il suo rapporto con i sindacati lì, e la gestione in America della Chrysler. Ho visto un servizio sulla CBS che era molto elogiativo, i sindacalisti ne parlavano molto bene, insomma c'era questo atteggiamento volemos bene, come si dice. Ecco, secondo te quello è un esempio in cui si vede come le differenze, senza dover necessariamente entrare nelle valutazioni qualitative, meglio un sistema o meglio l'altro, però mi sembra che alla fine i risultati ci sono. Abbiamo visto la settimana scorsa la Chrysler ha quadruplicato i profitti e ha raggiunto un equilibrio di produzione molto buono e addirittura ha assunto una gran quantità di nuovi lavoratori. Ma sì, io credo che esista negli Stati Uniti l'idea che se si crea lavoro, se si crea produttività, se si crea valore aggiunto, è un beneficio per tutti, quindi c'è un atteggiamento, credo, più collaborativo tra lavoratori, diciamo, e imprenditori, tra sindacati e imprenditori. Certo, anche negli Stati Uniti questa, l'aumento della disuguaglianza, il famoso 99% verso l'1%, sta anche qui diventando un fattore importante, ma qui è più, credo che sia più un discorso di una super minoranza di ricchissimi, questo famoso 1%, e più che una differenza tra il lavoratore contro il cosiddetto padrone. Non penso che i sindacati vedano il CEO della loro compagnia come un nemico, magari pensano che dovrebbe guadagnare un po' meno, ma questa idea che il CEO sta facendo di tutto per danneggiare i lavoratori c'è molto meno, mentre in Italia, in Europa si respira un po' di più l'idea che l'obiettivo dell'imprenditore sembra che sia quello di danneggiare il più possibile i suoi lavoratori. La lotta di classe nel 2012, secondo te, è qualificabile da economista come un'inefficienza nell'economia? Non voglio parlare delle rivendicazioni che hanno ovviamente portato molti benefici ai lavoratori, parlo di oggi, di una concorrenza globale. Io credo che si debba uscire dalla visione della lotta di classe, nel senso che ci sono gli imprenditori cattivi che hanno in mente solo di fare, tra virgolette, del male ai lavoratori, e quindi i lavoratori che si debbono difendere dicendo sempre di no e non preoccupandosi dell'impresa nel suo complesso, quindi della produzione nel suo complesso. Credo che ci voglia un atteggiamento un pochino più conciliatorio da entrambe le parti, quindi da un lato gli imprenditori devono rinunciare a tutti quei sussidi che si prendono dallo Stato a spese dei contribuenti, dall'altro credo che i sindacati debbano capire che senza un pochino più di flessibilità non si riesce a inserire i giovani nel mondo del lavoro, quindi questo tipo di lotta di classe che vede lavoratori e imprenditori come nemici è sicuramente inefficiente. Articolo 18, come lo vede un americano, un investitore americano questo articolo 18? Tu sei soddisfatto tra l'altro dall'ultimo modello di modifica di questo articolo? Credo che il dibattito sull'articolo 18 abbia un aspetto reale e un aspetto simbolico. L'aspetto reale ha a che fare con il fatto di rendere il mercato del lavoro più flessibile e consentire all'imprenditore di gestire la propria manodopera in modo flessibile, ovviamente con tutti i sussidi della disoccupazione del caso, per favorire più flessibilità e mobilità nel mercato del lavoro. E questo è importante da un punto di vista reale. Ci sono stati degli articoli sul Wall Street Journal che riflettono un po', credo, la visione del business sector americano, che hanno detto: bene, questo compromesso dimostra che ancora una volta gli italiani non riescono a fare le riforme con decisione come dovrebbero farle. C'è anche un aspetto simbolico, io credo, che sta assumendo questo articolo 18, ovvero l'aspetto simbolico è questo, si fa la politica economica come al solito con la concertazione, sedendosi al tavolo con i sindacati, discutendone ad nauseam nel Parlamento e con le parti sociali, eccetera, o in un momento di crisi si dice: bene, siamo in crisi, bisogna fare delle riforme decise, e si procede tra virgolette senza guardare in faccia nessuno e si va avanti. All'inizio del governo Monti pareva che questa fosse la strada che è stata seguita, per esempio nella fase riforma delle pensioni, eccetera. L'articolo 18 invece ci si è bloccati e si è ritornati un po' alla concertazione vecchio stile. Alberto, salutiamo i nostri ascoltatori con un auspicio, con un'idea: come si può rilanciare il lavoro? L'Italia è appesantita da un sistema fiscale estremamente pesante che tassa troppo, bisogna in qualche modo ridurre il peso fiscale di chi produce posti di lavoro, e bisogna rendere il mercato del lavoro più flessibile, tornando all'articolo 18, e snellire questo enorme peso dello Stato che rallenta l'economia. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, l'ologramma di Tupac al Festival di Coachella ha lanciato una strana moda. Ora tutti vogliono usare la stessa tecnologia per riportare in vita cantanti scomparsi. Può suonare un po' macabro, però è il caso del trio R&B TLC, che ha annunciato una reunion a 10 anni dalla morte di Lisa Lopez. Dei TLC, No Scrubs. Scrub is a guy that thinks he's flying, is also known as a buster. Always thinking about what he wants and just sits on his broom. So no, I don't want your number. No, I don't wanna give you mine. And no, I don't wanna meet you nowhere. No, don't want any of your time. And no, I don't want no scrub. A scrub is a guy that can't get no love from me. Hanging on the passenger side of his best friend's ride, trying to holler at me. I don't want no scrub. A scrub is a guy that can't get no love from me. Hanging on the passenger side of his best friend's ride, trying to holler at me. He's checking me, but his game is kinda weak, and I know that he cannot approach me. Cause I'm looking like class and he's looking like trash. Can't get with a deadbeat. Don't show love. Oh yes, son, I'm talking to you. Wanna get with me with no money? Oh no, I don't want no scrub. No scrub. No initially expand my horizons. Then it leaves you in a class with scrubs, never rising. I don't find it surprising if you don't have the cheese to please me and bounce from here to the coast of overseas. So, let me give you something to think about. Inundate your mind with intentions to turn you out. Can't forget to focus on the picture in front of me. Do it clear as DVD on digital TV screens. Satisfy my appetite with something spectacular. Check your vernacular, and then I get back to ya. With diamond-like precision, insatiable is what I envision. Can't detect acquisition from your friend's expedition. Mr. Big Willie, if you really wanna know, ask Chili. Could I be a silly? Not really. T-bars and all my senoritas and stepping on your felines, but you don't hit me though. No, I don't want no scrub. The scrub is a guy that can't get no love from me. Hanging on the passenger side of his best friend's ride, trying Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!